mentre voli in alto. In braccio a comete venute per te. Lasci indietro un mondo, miscuglio antico di sogni e realtà. Fili che non conoscerai, intrecciati, legati a nodi immensi, non avrai l'amore. Ma la tua pelle non invecchierà, e rimani un fiore, un fiore che il vento non scioglierà mai. Sentieri intrisi di linguaggi strani e malinconia che sempre ci dispone chiara. Nascosto in castelli e città, via senza rumore. Rubate i silenzi di antiche realtà. E seguirai le acrobazie strabilianti della tua mente accesa. Danze di parole. Giochi